sia lo satura, sembra che stia pompando con un pescatore come ce l'ho io. Ma l'eco glielo metto? No, glielo lascio a zero. Metti la pedala di eco. Guarda, ora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, cambio. A me con la eco non siete per niente. Guarda, ora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 3, 4, 15, 16, 17, 18, 19, 20, cambio. No, l'eco non esce. No, non so perché non esce. Ecco, proprio l'ho sentito io, niente. Non ho capito perché non esce. Guarda, ora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, cambio. Adesso si apre la pelle, lo sbrido e sposto, ma ce l'hai, non preoccupate di quello. Ora. Lascialo così, già va bene, allora lo fischi, esce perfetto. Cappa di Rogero, ora. Lascialo così, va bene, è a posto, io come sto uscendo con questo microfono? Bene, ma qual è quello nero che mi avevi fatto vedere, di quello là? È l'M300 questo, Ultimo per la truppa. Arriva Giovanni a scipigliare i bambini, cambio. C'è un casino qua, con tutti e due, con Mirko e Daniele. E non vuoi scendo. Non stai scendo in radio, no? Ma è possibile che una volta stai scendendo gli altri di 4 no? Guarda. Adesso va bene. D'accordo. Ascolta quello che ci fa la Gesù, sì.